Allora, il quarto capitolo del trattato Masechet Sukkah e siamo arrivati alla Mishnah numero 4, Mishnah Dalet. La Mishnah dice così: Mitzvat Lulav Keitzad. Come avviene la Mitzvah del Lulav? In realtà nel terzo capitolo abbiamo già spiegato come avviene la Mitzvah del Lulav e abbiamo spiegato che la gente doveva portare il Lulav al Tempio se venisse il primo giorno di Shabbat, che al tempo del Bet HaMikdash si faceva la mitzvah, anche di Shabbat, anche fuori dal Bet HaMikdash, però dovevano portare l'ulav al Tempio già dal venerdì e prenderlo Shabbat mattina al Tempio perché si poteva usare per la mitzvah, ma non trasportarlo in luogo pubblico, era Shabbat. Qui in realtà la Mishnah sta parlando di come avviene la mitzvah dell'ulav all'interno del Bet HaMikdash, sempre quando il primo giorno viene di Shabbat, ma è diverso di come avviene in luoghi che sono fuori dal Beit HaMikdash. Qual è la differenza? Vediamo. Mitzvat lulav keitzad. Come avviene la mitzvah del lulav? Yom tov arishon shel chag shechal liyot beShabbat. Qualora il primo giorno di Sukkot dovesse cadere di Shabbat, allora la gente molichin et lulavehen lehar habayit. La gente doveva portavano i loro lulavim al monte del Bet HaMikdash, Arabait, il monte del Tempio, quando il venerdì, Erev Shabbat, prima di Shabbat. Di nuovo, è permesso fare la mitzvah dell'ulav di Shabbat quando viene il primo giorno di Shabbat nel Bet HaMikdash, si può fare, ma non si può ancora trasportare l'ulav in luogo pubblico. Quindi dovevano portarlo al monte del Tempio, al Bet HaMikdash, prima che entrasse Shabbat. Ve ha-chazanin, chazanim significa non come si usa oggi il termine prevalentemente per dire gli officianti, coloro che cantano i chazanim. I chazanim è come si usa a dire a Roma i parnas, cioè i gabbaim, quelli che si occupano di sistemare le cose. Alberto. Esattamente. Allora, questi shamashim, questi chazanim, mekablim mehen, accettavano, ricevevano i lulavim da tutte le persone che li portavano, e li sistemavano, vesodrinotan al gava itzteba, e li sistemavano sul colonnato che c'era intorno al Harabait. L'interno dell'Harabait era tutto colonne, come potete vedere anche in questa figura che abbiamo qui, e lì sopra, e lì mettevano tutti i lulavim che arrivavano. Vehazkenim, e le persone più anziane, che non avevano la possibilità di l'indomani andare a lottare per prendere il proprio lulav tra tutti i lulavim che c'erano, allora loro cosa facevano? Manichim et celahen balishka. Per loro era predisposto una lishka, e cioè una stanzetta, un ufficio, dove lì era predisposto per tenere i lulavim degli zkenim, degli anziani. Poi, l'indomani, la gente veniva, e prima che venissero gli insegnavano, umelamdim otam lomar, il Bet Din faceva insegnare alla gente di dire, kol mishe magia lulavi beyado, a chiunque arrivasse il mio lulav in mano, cioè se io non dovessi arrivare al mio lulav e io arrivo al lulav di qualcun altro e qualcun altro gli arriva in mano il mio lulav, harei hu lo be matana, io lo considero per lui un regalo, glielo regalo. Perché? Perché come abbiamo già studiato, il primo giorno soprattutto di Sukkot, esattamente, il lulav deve essere di propria proprietà. L'abbiamo studiato nel capitolo precedente. Visto che c'erano così tanti lulavim e non era spesso possibile che ognuno possa riconoscere il proprio lulav, quindi Beit Din insegnava che bisognava dire così, in modo tale che qualsiasi lulav che arriva in mano a qualcuno possa essere suo e possa fare la mitzvah. Come le ombrelli. Le machar, l'indomani, mashkimin uvain, la gente si svegliava presto e veniva al Har HaBayit, e gli gabaim ve'achazanim Zorkim otam lifnehem. Addirittura prendevano i lulavim e li buttavano alla folla. E ognuno cercava di individuare il proprio e quindi arrivavano, vehem mechatfin, loro... Chotef. Sì. Acchiappavano. Loro acchiappavano. Umakin ishet chavero, e arrivavano a picchiarsi tra di loro per prendere il proprio lulav. Ukshera'u beddin shebauli dei sakana. Quando è arrivato un punto in cui Beddin ha visto che ormai la cosa è diventata troppo pericolosa per andare avanti in questa maniera, allora hitkinu hanno istituito sheyekol echad vechad, che ognuno, ogni persona facesse che cosa? Notel beveto. Ognuno faccia la mitzvah dell'ulav a casa prima di venire al Bet HaMikdash. E cioè non più di portarlo il venerdì al Har HaBayit. Ok? Stiamo parlando sempre del contesto del Bet HaMikdash. E poi prenderlo l'indomani mattina e andare a finire per picchiarsi, eccetera. Bensì lo tenga dentro casa, faccia la mitzvah dell'ulav prima di uscire da casa la mattina e poi vada al Bet HaMikdash. Però poi durante la tefilah che serve l'ulav in certi punti? In quel caso lo farebbe senza. Però almeno la mitzvah è fatta. Sì. Perché non puoi portarlo. Questo è il modo in cui si faceva la mitzvah dell'ulav nel Bet HaMikdash, soprattutto l'abbiamo spiegato per spiegare come avveniva quando il primo giorno dovesse venire di Shabbat. Ok? Ora, la Mishnah dice nel Mishnah Hei, mitzvat arava, keitzad. Come avveniva la mitzvah della arava, del salice, nel Bet HaMikdash? Abbiamo già studiato che nel Bet HaMikdash, tutti i giorni di Sukkot, si portava anche, oltre alla arava, che fa parte delle quattro specie dell'ulav, c'è una arava distinta che veniva posta vicino al Mizbeach. Qual è questa funzione e come funzionava la cosa? Questo è ciò che si spiegherà in questa seguente Mishnah. Mitzvat arava keitzad. Come avveniva la mitzvah dell'arava nel Bet HaMikdash? La Mishnah dice che c'era un luogo, Makom Haya, lemata Mirushalayim. C'era un luogo sotto Gerusalemme, Venikra Mozza, questo è il nome del luogo. Yordin Lesham, scendevano da Yerushalayim a quel luogo. C'è ancora questo nome, Mozza. Sì. Umelaktin Misham, e prendevano da lì, raccoglievano da lì, Murbiot Shel Arava, dei grossi rami di salice. Ubain, e li portavano e tornavano su al Bet HaMikdash, vezokfinotan bezidei hamizbeach, e li mettevano, come dire, in piedi, ai lati del Mizbeach. Ed erano talmente alti, dice la Mishnah, questi rami, che rashehen, le loro cime, kfufin al gabea Mizbeach, si piegavano sopra l'altezza del Mizbeach. Quanto era alto il Mizbeach? Quanti cubiti? 10 cubiti. Sì, e le aravot erano alte 11 cubiti. 3 metri. Ok? Come vedete anche qui abbiamo una figura in queste fotocopie. Sì. Allora, portavano queste aravot e poi qual era la funzione? Dice la Mishnah, tak'u veheriu vetak'u. I Kohanim suonavano le trombe e le shofarot e facevano tkia, trua, tkia, come si fa a Rosh Hashanah. Questo, secondo i commentatori, per aumentare il sentimento di simcha legato a quella occasione e a quel momento. C'è però una differenza tra quanto avveniva tutti i giorni di Sukkot per l'Arava e quanto avveniva quando era il settimo giorno, che noi chiamiamo Shana Rabba, che abbiamo già detto che c'è qualcosa di particolare riguardo l'Arava in quel giorno. Cos'era? Bechol Yom, ogni giorno, Makifin et HaMizbeach Pa'am Achat. Ogni giorno si faceva il giro del Mizbeach una sola volta. E per giro del Mizbeach ci sono diverse opinioni cosa significa. Alcuni dicono che si prendevano le aravote, si girava intorno al Mizbeach e poi li si mettevano in piedi vicino al Mizbeach, come abbiamo descritto prima, e si lasciavano lì per la funzione. E altri dicono che venivano subito poste lì le aravot, e per girare il Mizbeach si intende che la gente girava intorno al Mizbeach con i lulavim, come noi facciamo a Hoshana Rabbah, ma le aravot rimanevano poste lì. Su questo c'è una discussione. Ma il lulavim secondo il Rambam... No, solo quando il primo giorno era Shabbat non portavano i lulavim, capito, dopo, scusa. Però tutti i giorni portavano i lulavim. E il Rambam dice effettivamente che facevano il giro con i lulavim e le aravot venivano poste lì. Però appunto c'è una discussione. Cosa dicevano mentre facevano le hakafot, il giro intorno al Mizbeach? E tutti i giorni di Sukkot era un giro solo, mentre il giorno di Hoshana Rabbah erano 7 giri, come vedremo. Allora recitavano il seguente versetto: Veomrim, Anna Hashem Oshiana, Anna Hashem Atzlichana. Il versetto che è verso la fine del Hallel: Signore, salvaci, Signore, dacci successo. Anna Hashem Oshiana, Anna Hashem Atzlichana. La Gemara spiega, visto che si faceva il giro del Mizbeach, per questo chi poteva fare il giro? Solo i Kohanim. Perché solo i Kohanim? Nel Bet HaMikdash c'erano diverse aree e diversi livelli di restrizione per ciò che riguarda l'accesso a queste aree. Il Mizbeach si trova, la prima parte del Mizbeach, cioè la parte est del Mizbeach, perché il Bet HaMikdash funziona che si va da est verso ovest, l'entrata è a est, e si va verso ovest. Il Kodesh HaKodashim è il luogo più ovest del Bet HaMikdash, il luogo più sacro e più a ovest. Allora la parte est del Mizbeach è in un'area che si chiama Ezrat Kohanim, che è l'area dei Kohanim. Normalmente un ebreo normale non può entrare nell'area dei Kohanim, almeno che ha una mitzvah specifica da fare lì, allora può entrare. Ma l'area ovest del Mizbeach è già in un'area considerata ancora più sacra, che si chiama Bein Ha'ulam Vela Mizbeach, tra l'altare e il Ulam. L'Ulam è la grande sala dalla quale si accede al Kodesh, dove c'è la Menorah, il Shulchan, e il tavolo dei pani e il piccolo Mizbeach del Ketoret, e dopodiché nella stessa struttura c'è il Kodesh HaKodashim. Entrare Bein Ha'ulam Vela Mizbeach, tra il Mizbeach e la sala, è vietato per chi non è Kohen. Se si fa il giro del Mizbeach, significa che si va anche in quel luogo lì, perché si deve andare dall'altra parte del Mizbeach. Di conseguenza significa che solo i Kohanim facevano questo giro. Ok? E chi era più all'esterno osservava, ma non poteva partecipare al giro stesso. Quindi la Mishnah ha detto che si diceva Anna Hashem Oshiana, Anna Hashem Atzlichana. Però Rabbi Yehuda dice, no, Rabbi Yehuda Omer, amico di William, Rabbi Yehuda Omer, Anivahu Oshiana, Anivaho Oshiana. Non dicevano Anna Hashem Oshiana, dicevano, no, invece di Anna, Anivaho. Da dove vengono queste parole Anivaho? Non è che c'è un versetto che dice queste parole. Allora, Rashi nella Gemara, sulla Mishnah, riporta due spiegazioni perché Rabbi Yehuda dice che dicevano Anivao. La prima cosa, io e lui, come se fosse Anivahu, io e lui, però Anivao, senza la alef alla fine della U. Vav e Vav, come è scritto qui nella Mishnah. E allora Rashi dice che Anivao ha la stessa gematria di Anna Hashem. Ok? Stesso valore numerico, quindi è come se si dicesse la stessa cosa ma in altre parole, perché il valore numerico dietro è uguale. Anna Hashem e Anivaho hanno lo stesso valore numerico. Rashi poi aggiunge una seconda spiegazione e dice che quando noi guardiamo ai 72 nomi di HaKadosh Baruch Hu, da dove si derivano i 72 nomi di HaKadosh Baruch Hu? Allora tradizionalmente Rashi lo riporta, ci sono tre versetti nella parasha di Beshalach. Nel momento in cui HaKadosh Baruch Hu dice a Mosè: perché state aspettando davanti al mare? Vi ricordate quel momento in cui gli egiziani arrivavano da dietro e gli ebrei non sapevano cosa fare, perché davanti avevano il mare e dietro avevano gli egiziani, HaKadosh Baruch Hu ha detto a Mosè: perché stai pregando? Vai avanti e continua il viaggio. Alza la tua staffa e apri le acque. Sì. Allora la Torah, dopo il discorso che HaKadosh Baruch Hu fa con Mosè, la Torah dice: Vayissa, sì, Vayissa Malach Elohim, che il angelo del Signore che procedeva l'accampamento dei Bnei Israel va avanti e viene via e va dietro di loro per separare tra loro gli egiziani. Invece di essere posto davanti, viene posto dietro. E la nube che gli era davanti anche va dietro. E poi nel secondo versetto descrive come appunto viene a separare tra i due accampamenti, quello degli ebrei e quello degli egizi. E dice che questa nube, questa presenza illuminò la notte e i due accampamenti non ci fu contatto tra di loro, non ci fu vicinanza tra di loro per tutta la notte. Nel terzo versetto c'è scritto che Mosè alza il suo braccio, la sua mano sul mare, e Hashem fa sì che ci sia un vento orientale che è molto forte tutta la notte e trasforma il mare in terra asciutto e le acque si spaccarono in due, Vaibaku Amaim. Questi sono tre versetti che sono scritti sulla Torah. Ora, ognuno di questi tre versetti è composto da 72 lettere, ok? E i maestri spiegano che il modo per, diciamo così, non calcolare, ma il modo di mettere in evidenza i 72, c'è un concetto che si chiama i 72 nomi di Dio, è attraverso delle combinazioni di lettere di queste 72 lettere di ognuno di questi tre versetti. Come funziona questa cosa? Si prende la prima lettera del primo versetto, l'ultima lettera del secondo versetto e la prima del terzo. Così si forma la prima parola. Quindi qual è la prima parola? Vav è la prima lettera del primo versetto, Vayissa, quindi la Vav. L'ultima lettera del secondo è Halayla, quindi una Hei. Quindi abbiamo una Vav e una Hei. E la prima lettera della terza è sempre una Vav. Quindi Vav, Hei, Vav, si forma la parola Vaho. Ok? Ora più avanti, è così per ogni combinazione di tre lettere. Prendiamo la seconda lettera che è la Yud, la penultima del secondo versetto che è la Lamed e la seconda della terza, quindi Yud, Lamed, Yud, quello sarebbe il secondo, ok? E questi rappresentano i vari nomi di 72 nomi di Hashem. Ora qui abbiamo visto il Vaho, il Ani dove sta? È il 36esimo, la 36esima lettera inizia con Aleph, poi andiamo Nun e poi Yud e abbiamo Ani. Quindi Ani Vaho è tratto da qui come questi nomi di HaKadosh Baruch Hu, di 72 nomi. Ok? Ora la domanda è, molto bene, allora per questo Rabbi Yehuda dice invece di dire Anna Hashem, diciamo Ani Vaho. Ok, ma perché proprio Ani Vaho? Perché ci sono 72 nomi? Perché proprio questo? No? Allora i Tosfot spiegano, qui nella Gemara, i Tosfot citano questo commento di Rashi e dicono va bene, molto bello, ma perché proprio queste due parole qui? Ancora serve una motivazione, dicono i Tosfot, i commentatori dei Tosfot nella Gemara, per quale motivo serve proprio, perché la manishtana, perché proprio queste parole qua? La manishtanu. Allora dice perché nel Midrash di Eicha, il Midrash che commenta la Megillah di Eicha, cioè le lamentazioni, le lamentele che diciamo a Tisha B'Av, c'è scritto che c'è un versetto che dice Va'ani betoch ha'gola, un versetto di Yechezkel, e io mi trovo nell'esilio. Il Midrash è letteralmente un riferimento al profeta, che dice Va'ani betoch ha'gola, io trovandomi in esilio in Babilonia, ricevetti una manifestazione profetica e una visione profetica. Però Va'ani a livello midrashico è un riferimento ad Hashem. io sono con voi nella Golà, io sono con voi in esilio. Ok? E poi c'è scritto in un altro versetto di un altro profeta, Yirmiyahu, profeta Yirmiyahu, Vehu betoch azikim, e lui è tenuto con le catene, come una persona che è esiliata e imprigionata, tenuta con le catene. I maestri dicono nel Midrash Eicha, è di nuovo un'allusione ad Akadosh Baruch Hu, Vehu, e lui è un'allusione ad Akadosh Baruch Hu, come per dire di nuovo che quando gli ebrei sono in esilio è come se Akadosh Baruch Hu stesso si mettesse anche a lui stesso in esilio, cioè partecipa nella sofferenza, in altre parole. Allora questo è indicato dove? Nelle parole Ani Vaho, Ani Vahu. Ora, visto che è indicato in queste parole, sono proprio queste le parole che Rabbi Yehuda ha detto, sono quelle delle 72 lettere, 72 nomi di Hashem che vengono usati in quel momento, come per dire quando noi chiediamo Hoshiana, salvaci, invece di dire Anna Hashem Hoshiana, come dice il versetto normale nei Salmi alla fine dell'Alel, Signore imploriamo a Kadosh Baruch Hu, salvaci, noi alludiamo anche all'idea Aniva Hoshiana, anche tu a Kadosh Baruch Hu devi essere salvato, tra virgolette, cioè se toglici a noi dall'esilio, sì, dai a noi la redenzione e anche tu sarai redente in base all'insegnamento dei maestri che anche a Kadosh Baruch Hu si mette nella nostra sofferenza. Allora questo è il motivo per cui dice Rabbi Yehuda non Anna Hashem Hoshiana ma Aniva Ho Hoshiana, dicevano nel Beit HaMikdash secondo Rabbi Yehuda. Questo secondo la spiegazione del Tosfot e secondo la spiegazione di uno dei grandi maestri babilonesi, Rav Hai Gaon. Ora, la Mishnah prosegue e dice, Ve'oto hayom, lo stesso il giorno però più importante della Ravah, che sarebbe stato il settimo giorno di Sukkot, che noi appunto chiamiamo Shana Rabbah, invece di girare intorno al Mizbeach solamente una volta, come abbiamo detto prima, riguardo gli altri giorni, questo giorno qui, ma chi fine tam Mizbeach, sheva peamim. Questo giorno qui, che si facevano le accafoti, giri intorno al Mizbeach, 7 volte. E poi, Bisheat Petiratan, nel momento in cui vengono via dal Mizbeach dopo le accafot, cosa dicevano? Ma hem omrim, ma hen omrim, Yofi lach Mizbeach, Yofi lach Mizbeach. Tutta questa bellezza che noi facciamo per te, Mizbeach, cioè il mettere tutte le foglie e i rami intorno e fare tutta la funzione, è come dire, è un esprimere, un apprezzamento che grazie al Mizbeach noi possiamo espiare i nostri peccati. Rabbi Eliezer Omer, su questo c'è anche una variazione secondo Rabbi Eliezer, lui dice ciò che dicevano quando venivano via da questa funzione, dalle Hakafot, era non, come abbiamo detto, Yofi Lach, è bello per te, bensì Leka, le Yud Kei, al Signore Velach Mizbeach, Leka Velach Mizbeach. Cioè, ringraziamo Hashem e ringraziamo il Mizbeach. I maestri nella Gemara chiedono come si fa ad associare il nome di Hashem con un'altra cosa, sarebbe vietato normalmente. Allora la Gemara spiega, no, sono due clausole diverse, se vogliamo. Le ka, cioè al Signore, le yud kei, ringraziamo, ok? Ringraziamo, che come dire modim, modim anachnu lach, noi ti ringraziamo. E le ka, a te al Mizbeach, non ringraziamo, ma lodiamo. Noi diciamo così, lodare nel senso di apprezzare la funzione che possiamo fare grazie al Mizbeach, sì, esattamente, come dicevamo prima, che ci consente appunto di arrivare ad una capara quando ci serve. Quindi, oppure ad Hashem, dice la Gemara, noi mevarchim, noi benediamo, diciamo come dire Baruch ad Hashem, e al Mizbeach, di nuovo, noi lodiamo, mekalsim, un altro sinonimo di Shevach, di lode. Quindi questa è la quinta Mishnah. Nella sesta Mishnah c'è scritto che quando, e l'abbiamo già alluso prima, che quando il settimo giorno di Sukkot veniva di Shabbat, nel Beit HaMikdash si faceva comunque la funzione della Arava come se fosse giorno feriale, cioè la Arava, la Shana Rabba nel Bet HaMikdash respinge lo Shabbat, così come il Lulav nel Bet HaMikdash respinge lo Shabbat il primo giorno, la Arava del Bet HaMikdash respinge lo Shabbat il settimo giorno. Cioè, se il quinto giorno di Sukkot viene di Shabbat, quel giorno non si fa l'Arava. E quindi si risulta che si fanno sei giorni in tutto l'Arava. Ma il settimo giorno si respinge. Se Shabbat venisse il settimo giorno, allora si fa comunque la mitzvah dell'Arava. E per questo la Mishnah dice adesso nella Mishnah Vav che Maaseu Bechol, così come si faceva di giorno feriale, Kach Maaseu Beshabbat. La stessa cosa si faceva anche se dovesse venire il settimo giorno di Shabbat. Solamente con una differenza. Che non si andava a raccogliere l'Arava di Shabbat, la si andava a raccogliere venerdì. La funzione era uguale, ma il cogliere le Aravot, questo si può fare da prima, quindi veniva fatto il venerdì. Come si conservavano le Aravot, che siano belle e fresche da un giorno all'altro? Allora la Mishnah dice, Ela she'ayu melaktino tan me'erev Shabbat. È diverso solo nel fatto che lo si faceva cogliere prima di Shabbat, erev Shabbat, la vigilia, umanichin otam begigiot shel zahav. E li posavano in dei vasi d'oro pieni d'acqua e per rispetto e onore della mitzvah del Bet HaMikdash non erano dei semplici vasi ma addirittura dei vasi d'oro e lì mettevano i rami delle aravot che erano preparate e predisposte per la funzione della arava dell'indomani dello Shabbat, il settimo giorno di Sukkot in quel caso, che dei shelo yichmoshu, in modo tale che non si... Si appassissero i rami e le foglie delle Aravot. Ora, su tutto il discorso dell'Arava, sembra che ci sia una discussione, perché, come vediamo adesso, Rabbi Yochanan ben Berokà Omer, Rabbi Yochanan ben Berokà dice, Chariot shel dekel hayumevin. Lui dice la funzione delle foglie che si mettevano accanto al Misbeach non erano dei salici, erano delle foglie di palma, di dattero, dekel. Perché lui, in base a quanto è scritto riguardo i lulav, kapot temarim, rami di temarim, di datteri, di palme da dattero, kapot è scritto plurale, plurale, il lulav è solo uno. Allora lui dice, uno è l'ulav che si tiene in mano e uno sono le foglie di dattero che si mettevano sul Misbeach, che secondo lui erano il dattero e la palma e non le aravot. E i Chachamim non sono d'accordo con questa interpretazione, perché nella Torah è scritto kapot senza una vav, che si può leggere kapat, singolare. E i Chachamim dicono è scritto senza la vav per indicare che si dice kapot, ma si prende una sola, kapat, e non c'è un doppio. Invece Rabbi Yochanan ben Broca dice no, è doppia la parola ed è doppia la palma, diciamo così. Questo secondo alcuni che spiegano l'opinione di Rabbi Yochanan ben Broca nella Gemara, non tutti sono d'accordo che questo è il motivo della sua posizione in questo caso. Altri dicono che lui dice che ha più senso che si prenda la foglia del dattero per la mitzvah dell'arava, cioè la mitzvah della kafà del Misbeach, e non l'arava, perché nella foglia del dattero c'è un'allusione al nostro legame con HaKadosh Baruch Hu, nel dattero in generale, nella palma. Perché? Perché dice così come il dattero ha solo un cuore, il cuore del dattero, no? Come si chiama? Il nucleo. Quello che si mangia. Ah, è la frutta. Il frutto, vabbè. Non è il frutto, all'interno del tronco del dattero, in inglese si chiama ancora oggi cuore di palma, bravissimo, il cuore di palma, così come il dattero ha solo un cuore, anche gli ebrei hanno solo un cuore verso HaKadosh Baruch Hu, cioè il loro unico vero amore, la loro unica vera fede è in HaKadosh Baruch Hu. Allora dice, visto che c'è questa allusione, forse questo è il motivo per cui Rabbi Yochanan ben Broca dice che quando andiamo a dire Anna Hashem Oshianai, ci leghiamo ad HaKadosh Baruch Hu, usiamo il simbolismo del dattero e non dell'arava. Comunque, di nuovo, sul motivo esatto perché Rabbi Yochanan ben Broca dice così, c'è una discussione nella Gemara. Però lui è dell'opinione che non è arava, è dattero, è palma, vechovtinotan bakarka bitzidea Misbeach. E non solo si mettono vicino al Misbeach, ma si battono per terra, come noi facciamo con l'Arava o Shana Rabba, vicino al Misbeach, ai lati del Misbeach, oppure secondo altri sul Misbeach stesso, Veotò Hayom, e quel giorno, il settimo giorno di Sukkot, si chiama Nikra Yom Chibut Harayot, il giorno del battere le foglie di palma. E non, come noi abbiamo detto, Yom Shevi Shel'Arava, il settimo giorno dell'Arava. In futuro che si dirà? Anna, o come dice lui, o come dice l'altro? Sì, allora però l'Alaha non segue Rabbi Yochanan ben Berokha, l'Alaha segue i Chachamim, la maggioranza dell'opinione dei Chachamim. Solo una riga ancora, l'ultima che studiamo oggi, la Mishnah Zain, che è molto breve e che è legata al giorno di Hoshana Rabbah, quindi conclude il concetto. Miyad, dice la Mishnah, subito dopo che ci si congeda, ci si porta via dal Mizbeach, dalle Hakafot intorno al Mizbeach di Hoshana Rabbah, dell'ultimo giorno di Sukkot, a quel punto Hatinokot Shomtin et Lulavehen, i bambini scioglievano i Lulavim, cioè scioglievano il legame delle quattro specie, oppure li gettavano dalle loro mani, secondo un'altra opinione, cioè lasciavano andare i Lulavim e prendevano gli Etrogim, Veochlin Etrogehem, e mangiavano gli Etrogim. Però solo i bambini mangiavano gli Etrogim, perché dice che i grandi, chi è già obbligato a fare le mitzvot, non mangiavano gli Etrogim quel giorno, perché visto che è dedicato per la mitzvah, rimane dedicato per la mitzvah fino alla fine della giornata. Ma i bambini già iniziavano subito dopo la funzione del Mizbeach, che tutti hanno fatto la mitzvah, già iniziavano a mangiare gli Etrogim. E gli piaceva l'Etrogim ai bambini? Secondo altre opinioni, si mangiava gli Etrogim dei bambini. Visto che non erano considerati Etrogim della mitzvah, allora anche gli adulti mangiavano gli Etrogim, quelli quali Etrogim, quelli dei bambini. Allora quello concludiamo oggi, e la prossima volta vediamo il Hallel e la Simcha, come funzionava nei giorni di Sukkot, e questo va avanti anche per 8 giorni, non solamente per 7.